Cari fratelli e sorelle, anche oggi come mercoledì scorso vorrei parlare sul grande vescovo di Ippona in Africa, Sant'Agostino. 4 anni prima di morire, egli volle nominare il successore. Per questo, il 26 settembre 426, radunò il popolo nella Basilica della Pace ad Ippona per presentare ai fedeli colui che aveva designato per tale compito. Disse: «In questa vita siamo tutti mortali, ma l'ultimo giorno di questa vita è per ogni individuo sempre incerto. Tuttavia nell'infanzia si sperare di giungere all'adolescenza, nell'adolescenza alla giovinezza, nella giovinezza all'età adulta, nell'età adulta all'età matura, nell'età matura alla vecchiaia. Non si è sicuri di giungervi, ma si spera. La vecchiaia, al contrario, non ha davanti a sé alcun altro periodo da poter sperare, la sua stessa durata è incerta. Io, per volontà di Dio, giunsi in questa città nel vigore della mia vita, ma ora la mia giovinezza è passata, io sono ormai vecchio». A questo punto Agostino fece il nome del successore designato, il prete Eraclio. L'assemblea scoppiò in un applauso di approvazione, ripetendo per 23 volte: sia ringraziato Dio, sia lodato Cristo. Con altre acclamazioni i fedeli approvarono inoltre, quando Agostino disse poi circa i suoi propositi per il suo futuro. Voleva dedicare gli anni che gli restavano a un più intenso studio delle sacre scritture. Di fatto, quelli che seguirono furono 4 anni di straordinaria attività intellettuale. Portò a termine opere importanti, ne intraprese altre non meno impegnative, intrattenne pubblici dibattiti con gli eretici, cercava sempre il dialogo, intervenne per promuovere la pace nelle province africane insidiate dalle tribù barbare del sud. In questo senso scrisse al conte Dario, venuto in Africa per comporre il dissidio tra il conte Bonifacio e la corte imperiale, di cui stavano approfittando le tribù dei Mauri per le loro scorrerie. Scrisse lui quindi al conte Dario: «Titolo più grande di gloria è proprio quello di uccidere la guerra con la parola, anziché uccidere gli uomini con la spada, e procurare o mantenere la pace con la pace e non con la guerra. Certo, continua, anche quelli che combattono, se sono buoni, cercano senza dubbio la pace, ma a costo di spargere il sangue. Tu, al contrario, sei stato inviato proprio per impedire che si cerchi di spargere il sangue di alcuno». Purtroppo, le speranze di una pacificazione dei territori africani, la speranza andò delusa. Nel maggio del 429 i Vandali, invitati in Africa per ripicca dallo stesso Bonifacio, passarono lo stretto di Gibilterra e si riversarono nella Mauritania. L'invasione raggiunse rapidamente le altre ricche province africane. Nel maggio o nel giugno del 430 i distruttori dell'impero romano, come Posidio qualifica questi barbari, erano attorno a Ippona, che strinsero d'assedio. In città aveva cercato rifugio anche Bonifacio, il quale, riconciliatosi troppo tardi con la corte, tentava ora invano di sbarrare il passo agli invasori. Il biografo di Sant'Agostino, Posidio, descrive il dolore del Santo Vescovo così: Le lacrime erano più del consueto il suo pane notte e giorno. E giunto ormai all'estremo della sua vita, più degli altri trascinava nell'amarezza e nel lutto la sua vecchiaia. E spiega. Agostino vedeva infatti questo uomo di Dio, gli eccidi e le distruzioni delle città, abbattute le case nelle campagne, gli abitanti uccisi dai nemici o messi in fuga e sbandati, le chiese private dei sacerdoti e dei ministri, le vergini sacre e i religiosi dispersi da ogni parte, tra essi altri venuti meno sotto le torture, altri uccisi di spada, altri fatti prigionieri, perduta l'integrità dell'anima e del corpo e anche la fede, ridotta in dolorosa e lunga schiavitù dai nemici, così possidio. Anche se vecchio e stanco, Agostino restò tuttavia sulla breccia, confortando se stesso e gli altri con la preghiera e con la meditazione sui misteriosi disegni della provvidenza. Parlava al riguardo della vecchiaia del mondo, e realmente era vecchio questo mondo romano. Parlava di questa vecchiaia come ci aveva fatto prima per consolare i profughi provenienti dall'Italia quando nel 410 i Goti avevano invaso la città di Roma. Nella vecchiaia, diceva, i malanni abbondano, tosse, catarro, cisposità, ansietà, sfinimento. Ma continua, se il mondo invecchia, Cristo è perpetuamente giovane. E allora l'invito, non rifiutare di ringiovanire uniti a Cristo, anche in un mondo vecchio. Ringiovanire uniti a Cristo che ti dice non temere, la tua gioventù si rinnoverà come quella dell'aquila. Il cristiano quindi non deve abbattersi anche in situazioni difficili, ma adoperarsi per aiutare chi è nel bisogno. E quanto il grande dottore suggerisce, rispondendo al vescovo di Tiabe, onorato, che gli aveva chiesto se sotto l'incalzare delle invasioni barbariche un vescovo o un prete o un qualsiasi uomo di chiesa potesse fuggire per salvare la vita. E risponde Sant'Agostino, quando il pericolo è comune per tutti, cioè per vescovi, chierici e laici, quelli che hanno bisogno degli altri non siano abbandonati da quelli di cui hanno bisogno. In questo caso si trasferiscono pure tutti in luoghi sicuri, ma se alcuni hanno bisogno di rimanere, non siano abbandonati da quelli che hanno il dovere di assisterli col sacro ministero, di modo che o si salvino insieme o insieme sopportano le calamità che il padre di famiglia vorrà che soffrano. E concludeva, questa è la prova suprema della carità. Come non riconoscere in queste parole l'eroico messaggio che tanti sacerdoti nel corso dei secoli hanno accolto e fatto proprio. Intanto la città di Ippona resisteva. La casa monastera di Agostino aveva aperto le sue porte ad accogliere i colleghi dell'Episcopato che chiedevano ospitalità. Tra questi vi era anche Possidio, già suo discepolo, il quale poté così lasciarci la testimonianza diretta di quegli ultimi drammatici giorni. Scrive nella biografia, nel terzo mese di quell'assedio, Agostino si pose a letto con la febbre, era l'ultima sua malattia. Il santo Veliardo approfittò di quel tempo finalmente libero per dedicarsi con più intensità la preghiera. Era solito affermare che nessuno, vescovo, religioso, laico, per quanto irreprensibile possa sembrare la sua condotta, può affrontare la morte senza un'adeguata penitenza. Per questo egli continuamente ripeteva tra le lacrime i salmi penitenziali che tante volte aveva recitato col popolo. Più il male si aggravava, più il vescovo morente sentiva il bisogno di solitudine e di preghiera. Per non essere disturbato da nessuno nel suo raccoglimento, circa 10 giorni prima di uscire dal corpo, pregò noi presenti, così scrive Presidio, pregò noi presenti di non lasciare entrare nessuno nella sua camera fuori delle ore in cui i medici venivano a visitarlo o quando gli si portavano i pasti. Il suo volere fu adempiuto esattamente e in tutto quel tempo egli attendeva all'orazione. Cessò di vivere il 28 agosto del 430, il suo grande cuore finalmente si era placato in Dio. Per la deposizione del suo corpo, ci informa Possidio, fu offerto a Dio il sacrificio al quale noi assistemmo e poi fu sepolto. Il suo corpo in data incerta fu trasferito in Sardegna e da qui verso 725 a Pavia, nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dove anche oggi riposa. Il suo primo biografo, Possidio, ha su di lui questo giudizio conclusivo. Lasciò alla Chiesa un clero molto numeroso, come pure monasteri di uomini e di donne pieni di persone votate alla continenza sotto l'obbedienza dei loro superiori, insieme con le biblioteche contenenti libri e discorsi suoi e di altri santi, da cui si conosce quale sia stato per grazia di Dio il suo merito e la sua grandezza nella Chiesa, e nei quali i fedeli sempre lo ritrovano vivo. È un giudizio a cui possiamo associarsi. Nei suoi scritti anche noi lo ritroviamo vivo. E quando leggo i scritti di Sant'Agostino non ho l'impressione che un uomo morto più o meno 1600 anni fa, ma un uomo di oggi, un amico, un contemporaneo, che parla a me, parla con noi, con la sua fede fresca, attuale, anche oggi. E parlando così con Sant'Agostino, che parla a noi, parla a me nei suoi scritti, vede l'attualità permanente della sua fede, della fede che viene da Cristo, dal Verbo eterno incarnato e figlio di Dio, figlio di uomo con noi. E possiamo vedere che questa fede non è di ieri, anche se predicato ieri, ma è sempre oggi, che realmente Cristo è ieri, oggi e per sempre, che è la via, la verità e la vita. Così Sant'Agostino ci incoraggia ad affidarci a questo Cristo sempre vivo e così trovare la strada della vita. Grazie.